Analog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Quanto ti manca la tua famiglia, Rocco? Rocco, il duro dell'isola, si commuove e il porno divo mostra il suo lato più sensibile durante le nomination del reality su Canale 5. In studio c'è la moglie, Rosa Tassi, e Siffredi scoppia in lacrime. Voglio essere un marito migliore, ti amo sempre di più, dice Rocco, che già nei daytime confessava di sentire molto la mancanza della famiglia. È che ti sogno sempre e non riesco a prenderti, è come se tu non mi vedi più. Amore, io sto qua, lo sai, sto sempre con te, anche ragazzi, anche la prova del, anche io, amore. Ti amo. Avevamo ancora una certezza, ci sorreggeva ancora una speranza, avevamo un mito su cui rifare tutte le nostre frustrazioni, tutti i nostri desideri, tutte le nostre illusioni. Costui era l'obelisco vivente, Rocco Siffredi. Rocco ha pianto all'Isola dei Famosi, ha pianto, ha singhiozzato, come una fanciulla in fiore, come un bambino a cui hanno tolto la marmellata, come un povero essere tapino e sperduto nel mare procelloso dell'oceano della Playa Desnuda. E questa mattina sottopongo agli italiani questo angosciante dubbio. Adesso che anche Rocco ha pianto, adesso che anche Rocco ha mostrato il suo lato debole, adesso che anche Rocco, l'unico italiano che non si piegava mai, adesso che anche Rocco, colui che può parlare di patata e far arrossire anche le madri badesse, ha pianto, cosa ci rimane di certezza? Dov'è finito il nostro orgoglio maschile? 800240024, oggi è una giornata di lutto perché Rocco ha pianto. Io di patatine ne ho prese tante, gustose, fragranti. Non ce la faccio a stare senza, le ho provate tutte. Americane, tedesche, olandesi, con la sorpresa. Le mangiavo così, senza tanti complimenti, anche tre alla volta. Ma nessuna è come questa. Fidati di uno che le ha provate tutte. Amica Chips è la migliore. Questa era una delle pubblicità più note cui Rocco si è prestato come testimonial. Lui solo poteva trovare una sorta di indecente sottosenso anche nella patata fritta, l'innocente e merendina di ogni bambino. E naturalmente se ne aggiunse un'altra di cui non abbiamo testimonianza in questo momento sonora, il Big Rocco, una sorta di hot dog che lui vendeva per strada con un carrettino da caldarostaio o qualcosa del genere. Perché questa mattina voglio soffermarmi su questa assoluta virata improvvisa del costume? Perché Rocco Siffredi è andato all'Isola dei Famosi, che non è niente di che, ma comunque è un programma televisivo di resumazione, è la TV resumatoria, è un luogo in cui alcune persone che vedono appannato il motivo della loro celebrità, della loro fama e la improvvisa timore della scomparsa dal mondo delle celebrità le fa passare attraverso questa sorta di ordalia, questa prova del fuoco, vanno in un'isola perduta e devono ancora cimentarsi al massimo dei loro talenti e naturalmente il pubblico clemente dà loro come una sorta di flebo di formaldeide a un cadavere, una sorta di rinfrescata perché possono tornare al mondo e essere nuovamente accettabili come personaggi. Tra questi personaggi è stato scelto non a caso Rocco Siffredi, era il punctum della presentazione alla stampa dell'Isola dei Famosi. Tutti si aspettavano molto da Rocco perché si sa che nell'Isola dei Famosi una delle chiavi fondamentali della narrazione è che i personaggi, proprio perché stanno in un'isola tropicale, viaggino nudi e naturalmente la nudità di Rocco eccita molto le fantasie, sì, non perché sia qualcosa di mai visto o di innominabile, basta fare una ricerca in internet, ma perché naturalmente noi siamo un paese molto bigotto, ciò che a tutti è palese, che tutti conoscono, quando passa nel Sancta Sanctorum della televisione generalista diventa qualcosa che assume nuovamente, proprio in questa sorta di teoria della formaldeide, una nuova carica di sensualità. Quindi Rocco si aggira per l'Isola dei Famosi con degli slippini anni 70, quelli attillati che non metterebbe più nemmeno un ragioniere in pensione. Perché? Perché sotto c'è questa sorta di evidente noce di cocco che naturalmente piace molto e alza gli ascolti. Ma cosa è successo? È successo che nell'ultima puntata improvvisamente, evidentemente l'impaccatura evidente non richiamava più di tanto l'attenzione, è stato sottoposto Rocco a un repentino lifting, è stato sovrascritto. Rocco è diventato presente un padre di famiglia, è diventato improvvisamente un marito accorato che dice alla moglie: non vedo l'ora di tornare per darti finalmente quello che non ho avuto modo di darti in tutti questi anni. E uno non può che venirgli la sudarella. Povera donna, cosa mai sarà sottoposta? 800240024, come vi sentite questa mattina che Rocco Siffredi ha pianto e quindi non è più quel mito impavido di uomo spavaldo che prendeva le sue vittime e le infilava la testa dentro il water? Questa è la sua scena più famosa nei film di Rocco Siffredi, la scena per cui è passata la storia: prende una donna possedendo more pecorum, le infila la testa dentro il water. Beh, invece piange come una bambina. Sandra, buongiorno. Ah, buongiorno, sono Sandra, qui di Saonara. Siccome sono... No, aspetta, calma Sandra. Innanzitutto la sua prima impressione, com'è rimasta nel vedere Rocco che piangeva? Mi ha fatto ridere. Quindi ha capito che dietro, diciamo, quella sorta di carro armato, in realtà si cela un animo fragile? No, secondo me c'è un attore. E poi che cosa gli è rimasto? Io ho detto in modo forse un po' volgare: il cazzo. Poteva anche usare una metafora colorita, poteva dire... No, perché veramente... Detto da lei è quasi poetico, quindi è che siamo nell'ora del soffritto in cui le ascoltatrici stanno tagliando la cipolla e buttandola nell'olio bollente insieme al peperoncino. Però lei si è abituata a esprimersi in questa maniera, io non mi scandalizzo. Ma non è per volgarità, è proprio perché mi fa un po' ridere, mi fa sorridere. Ma in quel caso, vede, non ha l'accezione che le dà questo termine di innominabile oggetto... di copola, è come, diciamo, il carpentiere al martello pneumatico, come il muratore alla cazzuola, è come il pittore al pennello, è uno strumento di lavoro, quindi è uno strumento di lavoro ed è potenziato in questa sorta di carica innominabile. Gli resta solo quello. Ma perché prima cos'altro aveva secondo lei? Ma aveva il mestiere e basta, è una persona anche simpatica, però a un certo punto vedere una persona così piangere, che mi sembra fasullo, è per quello che l'ho detto, non per altro, non la persona in sé, ma mi sembra un po' tutto falso. Ma secondo lei è un uomo che ha una giusta e meritata, più che meritata, naturale, quasi genetica, propensione a rappresentare un modello di virilità, può permettersi di piangere poi? Può permettersi di piangere, ma no in un contesto di questo genere in cui sa chi è e l'esibizione che può fare e la forza di dire queste cose. Cioè, ma secondo lei questi uomini ipercazzuti, anche millantatori, in realtà perché di fronte alle mogli poi diventano degli agnellini e si mettono a piangere? Questo non l'ho capito. Forse perché portano tanti soldi a casa, può essere? Tanti, ne porterà una cosa giusta, non è che ne porta... No, io sono contenta per lei se è innamorata e anche porta soldi a casa, però mi sembra un po' tutto ambiguo. Ecco, ultima cosa, Sandra, la prendo come test, visto che la prima donna coraggiosamente ha lasciato la mezzaluna con cui faceva il soffritto e ha così coloritamente contribuito alla nostra trasmissione. Secondo lei, dopo per essere, le dà più un brivido serpentino lungo l'osso sacro il Rocco della filmografia porno o il Rocco che piange? È una domanda molto difficile quello... Però si sforzi, perché lo dica estinto, senza pensare. Estinto, forse il mestiere che fa può dare un brivido. Quindi, diciamo, in fondo un uomo che si sa che si guadagna il pane con il sudore del suo illinguine, in qualche maniera qualche effetto lo fa. Sì, qualche effetto lo fa sicuramente, se no non sarebbe famoso. E anche perché sa parlare, sa fare... Sa parlare, adesso non ci allarghiamo, sappia parlare. Oltre la patatina che gli piace tanto, non ho mai sentito esprimere concetti filosofici. Non è questo importante, Ma l'uomo che piange le piace, le dà, cioè se io mi mettessi a piangere improvvisamente e prorompessi in singhiozzi e alterassi il mio modo di parlare, le sembrerei più accattivante. Io stimo molto lei, per cui potrei anche capire. Ma sì, infatti è un momento difficile che sto passando, mi capisce? Certo. Grazie signora, grazie. Grazie. Credo che sia iniziato il percorso che volevo fare. Marito e come padre, diciamo che potrei fare molto molto molto di più, ed è per questo che sono qua sull'isola, per cercare se riesco a migliorare tutte e due queste parti. So di che mia moglie merita tanto, tanto, tanto di più. Spero di riuscirci. Io vorrei sapere come si migliorano sull'isola quelle due parti che vuol migliorare Rocco. E cos'altro di più può meritare la moglie di quello che può dargli Rocco Siffredi? Le mogli medie degli italiani, se non accontentare di misure ben più meschine, cosa dovrebbero dire? Michela, buongiorno. Salve, buongiorno, buongiorno a tutti. No, che ridere nell'ascoltarvi. Sì, dico, la moglie di Rocco Siffredi avrà molto di più di quello che lei normalmente avrà a casa sua, immagino, ma questo vale per tutti. Non lo so, guardi, questo lo metto davvero in dubbio. Ah, perché a casa sua, diciamo, ha un marito che può, diciamo, misurarsi con Rocco. Sì, sì, mio marito è davvero molto... È di spalle larghe, diciamo. Sì, sì, ecco, ma, ecco, ma suo marito che è di spalle così larghe, l'ha mai visto piangere? No, non l'ho mai visto piangere, però è altrettanto sensibile forse nei più piccoli dettagli, però non necessariamente in pubblico, ecco, non l'ha fatto nel pubblico. Quindi non mai. C'è un rapporto diretto rispetto a questa sorta di belluina prestanza fisica, questa sorta di macroscopica ipertrofia sessuale e la possibilità di piangere? No, sinceramente io non la vedo proprio. Quindi anche l'uomo iperdotato può piangere? Certo. No, perché noi pensavamo ci fosse. Questa è più una domanda da Nicoletta Carbone. Un rapporto diretto tra i corpi cavernosi e i dotti lacrimali. Ma in realtà non c'è. Chi è molto lì anche può piangere. Bene, Antonio, buongiorno. Ciao, buongiorno. Sì. Può sembrare patetico il Rocco, ma è un uomo come tanti altri. Beh, mica tanto. Non vedo... sì, se fossero tutti così gli uomini, vabbè, ma è un cambiavamo uomo mestiere. Lui, è un uomo anche lui con la sua sensibilità, al di là del lavoro che ha fatto, che fa da tanti anni, che poi piace a tutte, chiaramente. È chiaro, ma questo è venuto evidente dalle prime telefonate. È una sovrastruttura mentale e ipocrita dire che piaccia soltanto agli uomini un certo tipo di filmografia. Hanno chiamato solo donne. E hanno detto comunque gli va bene Rocco, ma è giusto che sia così. Certo, finalmente. Ma è giusto che si commuova, perché poi sai, i valori, la famiglia prima di tutto, perché no, al di là del mestiere che si fa. Poi voglio dire una cosa, Greggio, io per tanti anni ho fatto un lavoro molto duro, un sport molto duro, però sono una persona sensibile che ma anche lei è un pornostar? Pardon? Anche lei è un pornostar? non ne sento la necessità di esserlo, anche se anche quello è un lavoro come tanti altri, un uomo. Anche per l'uomo è diventato il lavoro più antico del mondo forse, no? Però la sensibilità è una cosa bellissima, al di là del lavoro che fai, al di là della persona che sei, quindi io sono convinto che Rocco sta facendo una buona isola ed è una persona molto forte anche fisicamente, quindi viva Rocco e viva gli uomini sensibili. Quindi diciamo lei si identifica in questo nuovo modello, un Rocco Siffredi dalle obelischiche prestanze, però allo stesso tempo capace di piangere. Ci fermiamo un istante per il traffico, poi riprendiamo con Barbara che ci aspetta. Melog, cronache meridiane. Rocco è già in posizione. Perfetto. Si tratta di resistenza e coraggio al fuoco, per questo prova del fuoco, quindi vado a spiegare le regole. Rocco, dopo recupererai la posizione della X, giustamente. Un minuto, ha resistito un minuto per adesso, Alvin. Credo che stia iniziando a soffrire. Rocco sta resistendo moltissimo. Anche troppo. E con il tempo di 2 minuti e 14 secondi vince Rocco ed è il leader di questa settimana. Anche questo ci rincuora, sapere che la barriera del tempo per Rocco Siffredi è 2 minuti e 14 secondi. Cominciamo anche noi a avere qualche speranza di poter, non dico eguagliarlo, ma avvicinarci ai suoi record. Pensavo molto di più, pensavamo a quello che si dà nei film, almeno un 50 minuti sicuri e ininterrotti di resistenza. Invece no, 2 minuti e 50 secondi. Poi non so quale fosse la prova dell'Isola dei Famosi. Questa mattina stiamo riflettendo sul fatto se l'uomo che non deve mai chiedere, l'uomo che non si piega mai, Rocco Siffredi, l'italiano che ancora rappresenta una sorta di visione onirica del tutto irreale del maschio ipersessuato, ha dimostrato che piange, cioè ha fatto finta di piangere, la sceneggiata piangevano tutti, però si è piegato a piangere per un uomo che ha sempre dimostrato il disprezzo e la tracotanza della sua mazza sempre pronta e sempre irresistibile. Evidentemente qualcosa sta cambiando nel costume generale, ce lo spiega Barbara. Buongiorno. Buongiorno. Come la vede? Ma io penso che il pianto fosse reale, che non fosse un pianto... Era sincero lei, piangeva sinceramente. Secondo me è sincero, ma per un semplice motivo. La fame e comunque la fatica fisica e il fatto di essere anche lontana in un posto non proprio ospitale ti porta anche a un crollo di nervi. Quindi credo che lì un po' tutti abbiano questo tipo di reazione. Per lui è stata forte in questo momento, forse anche perché... Quindi si è scoperto un mammone, un tenerone che ama la moglie, non vede l'ora di tornare a casa. Uno che si porta la foto della madre morta dicendo, e se l'è messa proprio a mo' di comodino, dici io la guardo e vedo dalla foto se è felice oppure no di quello che fa. Cioè se la mette a anche sul comodino quando gira i film, sì, la povera anima della mamma non so quanto si manterrà in paradiso. No, il comodino che si è creato all'isola dei famosi. Ah, l'isola dei famosi. Con la sabbia, sì, l'ha appoggiato. Quindi con la mamma sempre vicino. Una persona vera, mi sembra. Io non me la riesco a ricordare questa vera scena che è fatidica, di Rocco prende una signorina con i capelli neri, gliela infila dentro il water e poi la possiede a dire. Però, diciamo, sì, no, questa è, lo dico perché, non perché, perché è la scena più famosa, è quello che l'ha reso celebre, è la sua invenzione. Ognuno ha la sua invenzione, come può essere un passo di danza, un colpo di scherma, un gorgheggio. Il suo punctum artistico è quello, è la testa infilata nel water. Alessandro, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Sì. Senta, io non seguo la televisione perché comunque questo tipo di trasmissioni, lei sa benissimo, è tutta finzione, per quanto si possano chiamare reality, sono tutta finzione. Vabbè, però è bello, uno, anche il cinema è finzione, uno ci va. Vabbè, qua è proprio... Anche l'amore è finzione, uno si innamora. Terra proprio. E, quello che però volevo notare, cioè che avevo notato nella risposta che aveva dato una radioascoltatrice precedente, sentivo nelle sue parole, che sono sempre molto belle, affascinanti e colorite, sentivo una punta di invidia. Grazie, come mai? Perché lei non lo invidia, scusi, uno che va per i 40 centimetri, cioè sta cosa, cioè, non è per dire terra, è un blasone che lui può impugnare, altri uomini no. Comunque, le cose hanno un nome. Io penso che il connubio perfetto per ogni donna sia la mente di Nicoletti con il corpo di Rocco Siffredi. Lo so, però guardi, io la mente ce la metto, però si diverte più lui in questa sorta di Frankenstein. Comunque vabbè, Bruno, buongiorno. Buongiorno. Sì, la sento un po' depresso. Pronto? Pronto? Sì. Sì, mi dica tutto. No, lei ha telefonato a dare un contributo. Io ho telefonato perché vedo che tutti lodano sto Rocco Siffredi, che sembra che tutte le donne del mondo l'ha fatte lui, no? No, ma c'è gente che non si è fatto pagare e ne ha fatte molto di più magari. Tipo lei? Io anch'io, la mia parte l'ho fatta. Non dico... Quante? Magari quante? L'ho fatta anche più di lui. Quante? Ma io guardi, io nel mio piccolo penso documentate un 6-700 tutte. Cioè lei è un'agendina con 700 nomi? Sì, no, non nome, attenzione, che nome ne posso scrivere 10.000. Documentari di donne che ho trombato. Ma scusi, lei che fa? Tiene, fa le foto, tiene il... No, io mi divertivo, lo facevo per divertimento, per sì, passione. 700, in quanti anni 700? Per fare una media. Ma, una ventina d'anni tutti. Quindi all'anno quanto ne faceva? Quindi un 35 all'anno? Ma penso anche di più, eh. Eh no, perché la media è quella, 700 in 20 anni sono circa 35 all'anno. Voglio dire, ma... Che poi non è manco tanto, alla fine si va a vedere, no, sono 3 al mese. Non 700 trombate, 700 donne. Sì, 700 donne diverse, sì. Se le ricorda tutte, come il personaggio della Città delle Donne di Fellini. Mi ricordo pure quelle estere, non solo quelle italiane. Vabbè, quelle estere, le straniere, quelle non... Straniere, certo. Lei ha presente la Città delle Donne, c'era proprio questo personaggio, si chiamava Cazzone, e c'aveva questa sorta di cimitero parlante con tutte le immagini delle donne che aveva posseduto. No, a me non serve quello. Guardi, ho fatto fatica a lasciarle, non a trovarne. Ma lei cos'è? Perché è particolarmente bello, è ricco, è bravo? No, io sono un poveretto, solo che sono magari piacente e le donne... Ha speso molti soldi per questa sua attività? Ma sinceramente no. Quindi lei gratuitamente ha avuto 700 donne? Qualche cena, qualche cosa, sa, la cena devi pagare se vuoi andare fuori. Però c'è stato anche quando l'hanno magari anche pagata, però non è questo, c'è il discorso è che... Quindi lei è una punta di invidia, dice... appena piace... Ma lei perché piace? Qual è la sua caratteristica? Che ne so io qual è, le donne... Le donne gli avranno detto, mi piacciono i tuoi occhi, mi piace come parli... Quello fuori discussione, quello là gli occhi. è la cosa che si vede. Per la tua capacità dialettica, non so, lei magari è una bella favella, ma, quindi... ma anche lo strumento, anche come si dice in gergo, il cazzo. Ma perché, scusate, ma perché c'è questa... Io non è che non faccio il moralista, ma c'è un andazzo... Usate una metafora, scusi, lo stelo di Giada, che ne so... Ma lei lo chiama come vuole, a noi la chiamano la scultura. La scultura, quindi... a lei la chiamano la scultura, è particolarmente, diciamo, artefatto. Va bene, quindi... È che si è dilagato un po' di pubblico che magari ha piacevolezza nell'intrattenere in altri orari. Va bene, figuriamoci, la scultura. Bruno con la sua scultura dice non c'è soltanto Rocco, solo che Rocco è Rocco e Bruno non lo conosce nessuno. Se non chiamava per vantarsi questo nostro numero, nessuno avrebbe avuto l'idea che esistesse una scultura vivente così apprezzata da oltre 700 donne. Roberto, buongiorno. Saluto Nicoletti, volevo dire che io non seguo queste cose, ma seguo sempre la trasmissione vostra e ho imparato poco fa di questo fatto, ma non mi meraviglia, cioè se noi pensiamo Achille che piange quando muore Patroclo, Carlo Magno che piange quando muore Orlando e altri episodi, gli uomini hanno sempre pianto, non capisco perché ultimamente forse... Non capisco perché ultimamente i veri uomini non devono piangere mai, quasi che il piangere fosse una dimostrazione di debolezza, mentre il piangere significa che è una dimostrazione di completezza. Sì, però se vogliamo vedere un modello classico, epico, sì. L'uomo piange sulle rovine della sua città in pugno al nemico, l'uomo piange nel rimpianto, non piange mai di fronte alla moglie, dice cara sto lontano, ma se l'immagina, scusi, Ettore con Andromaca che piange e dice scusa cara non t'ho dato abbastanza, te lo darò la prossima volta, su Troia in fiamme mentre alza il piccolo Astianate, no, non può essere così, assolutamente non esiste. L'uomo non piange di fronte alla moglie così come un bambino, può piangere in altre mille occasioni. Antonio. Buongiorno Nicoletti. Allora, io telefono da Bari, le volevo dire subito che l'oggetto innominabile in alcune zone qui si chiama il capitale. Il capitale. Ecco, allora la mia osservazione è semplicemente questa. Carlo Marx pensava a quello quando ha scritto il suo famoso libro, sicuramente, era passato dalle parti di Molfetta, di dove sta lei. Giustissimo. Quindi il suo capitale umano come l'ha impiegato? Allora, il mio capitale umano l'ho impiegato in maniera molto comune, molto, come si può dire, molto ordine del giorno. Se l'hai tenuto ben stretto, ecco, facciamo così. Diciamo così, non sono mai stato un supereroe. Però secondo me, ecco, un pornatore che piange è più credibile. Le faccio questo parallelo, io faccio il rappresentante, una volta il rappresentante andava in giro in giacca e cravatta, aveva anche l'orologio d'oro. Oggi finto, non è più finto, credibile. Finto, tarocco. Tarocco. Oggi non è più credibile un rappresentante in giacca e cravatta, oggi abbiamo bisogno di un comico che parla all'Italia e dice le cose concrete, perché il politico come Monti in giacca e cravatta non è stato più credibile, non ha preso mica il 25% Monti, le ha presi un comico. Quindi uno senso di spesamento, ha capito questa importante maniera di scompaginare quello che era il luogo comune rispetto al porno attore che doveva soltanto mazzolare, si è messo a piangere, questa sorta di cardellino indifeso fa più tenerezza di quanto lo faceva lo sparviero impavido che fendeva e spaccava. Arrivederci.